guarda che sta funzionando davvero. Incredibile. Ma cos'è il 2022 questo? Che Il ritorno, il ritorno. Benvenuti, non siamo morti. E, cosa dovevo dire? Mi sono scordato come si fa. Allora, benvenuti, episodio 208. Ma come? Non avevo detto reboot. La scorsa... Ah, e come chiamiamo, cambiamo tutto? Cambiamo sito, cambiamo reboot. Ah, episodio 1! La nuova stagione, che avrà due episodi, almeno due episodi. Vabbè, puoi farlo ogni 15 giorni così riempi il mese intero. Sì? E poi lo fai ogni 15 Era giorni. successo, l'avevamo detto anche l'altra volta, non ha funzionato a lungo. Ha funzionato un annetto, sta cacata. Vabbè, e comunque, con me c'è Angela, che avete sentito, Jacopo e Andrea. Ciao. Abbiamo dovuto, insomma, come si dice? Riesumare. Riesumare, esatto. E questo è perché Jacopo è venuto a voglia di parlare di Minecraft. Non è Ma perché tu vero. l'hai obbligato a vedere? Ah, perché io ho obbligato a vedere. Allora, la storia è questa. Volevo vedere quando era uscito. Allora, stasera, vabbè, tanto si vede già nel titolo, eccetera. Parliamo di A Minecraft Movie, un film Minecraft. Già è tradotto male, però vabbè. Che è un film che è uscito quest'anno e che io volevo andare a vedere al cinema e stavo per costringere Angela ad andare al cinema a vederlo. Poi non so per quale strano, non so se voi avete avuto questa stessa tentazione. No, Ok. onestamente no. Vabbè, comunque il cast era figo, io sono un giocatore di Minecraft, ero un giocatore di Minecraft, bello il gioco, i trailer erano fighi, conosco il foto, cioè conosco, seguo il fotografo che ha curato le foto di, diciamo, di promozione di questo film. E perché è il fotografo ufficiale di Jason Momoa, che eccola, vedi che c'è la zanzara. Ah, sì, Scusate, esiste. piccolo. Sì, esiste Sì, realmente. il fotografo ufficiale di Jason Momoa ha fatto anche le foto a tutti gli altri per la promozione di questo film. Allora ero molto gasato perché in realtà lui è molto bravo, anche se è un po' fissato con i piccioni. E c'era Jack Black anche. Eh sì, vabbè, poi c'era Jack Black, mi piace Jack Black, c'era Pippa Enders lì, come si Sì. chiama, quella di Come come uccidere uccidono le una brave ragazza. ragazze. E Enid. Sì, vabbè, e quindi ho detto andiamo al cinema a guardarlo. Poi non so perché Dio ci ha fatto questo regalo e ha fatto sì che non Avevi che letto delle avessimo. recensioni che dicevano che era brutto e quindi non siamo andati. Ah, Ha detto lo scarichiamo. ok. Avevo detto lo scarichiamo, poi non l'ho manco scaricato, quindi non potete neanche accusarmi di aver fatto cose illegali. Ora, tornavamo dalla Corea qualche settimana fa e sul monitorino dell'aereo è comparso Minecraft in inglese sottotitolato in cinese perché volavamo con Air China. Allora a quel punto ho detto perché no? Perché non guardarlo insieme? In Angela di fondo, fianco a me, esatto. cosa può andare storto? E quindi abbiamo fatto, visto che in aereo, non so se avete mai guardato un film con qualcuno in aereo dal monitor dell'aereo. L'unico modo per farlo è tipo 3, 2, 1 e clicchi insieme e fai partire sui due monitorini il film. Quindi abbiamo fatto 3, 2, 1 e l'abbiamo fatto partire e l'abbiamo. Ah, spiace. Scusate, c'è stato un Cavolo, abbiamo assassino. immortalato il momento in cui è morta la zanzara, incredibile. Non so se L'orgasmo. Un tagliarlo po' di in podcast post. che hanno questo. Questa è una pizza. Palla. Vabbè, e quindi abbiamo visto questo film. Ora, prima di parlare di questo. Ah, abbiamo visto, io l'ho visto, Angela ne ha visto quasi tutto. Vengo per commentare la prima metà. Sei metà, forse un po' più di metà. Vabbè, comunque. Ora, prima di commentare il film, diciamo di cosa stiamo parlando, ma tanto lo sapete tutti voi che ascoltate questo podcast. Allora, se ancora avete il feed attivo e quindi sapete che è uscita questa puntata, se no neanche voi che seguite il podcast vedrete questo episodio. E allora il film appunto è un si parlava mi sa da un botto di un film di Minecraft. Minecraft è un videogioco uscito nel 2009, 2008. Wow. Davvero? Pensavo fosse più vecchio. No, beh, sì, è uscito, sì, in quegli anni. Forse la prima versione del 2011. Ah, può essere, sì. Poi vabbè, è uscito in diverse versioni, poi è stato comprato da Minecraft, da Microsoft, e adesso ci sono altre milioni di versioni, altri giochi collaterali, insomma è un brand da tanti tanti soldi, e si, visto che adesso va di moda prendere videogiochi e trasformarli in film, ovvero fare un film in CGI e metterci due attori veri ogni tanto, e hanno deciso di finalizzare questo film di Minecraft. Adesso non so quando sia cominciata la produzione, sono totalmente impreparato, però mi sa che è abbastanza lungo, tipo verso il 2012, quindi quasi più di 10 anni di produzione di questo film. Alla fine hanno preso un cast abbastanza grosso, perché abbiamo già citato Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Daniel Brooks, e basta, in realtà tutto il resto è digitale. però insomma questi 4 attori saranno stati pagati un botto. Vicepresidente Rapata, sì, esatto, Jennifer Coolidge, e un po' di voci di altre persone, perché comunque alcuni diciamo personaggi digitali, invece che fare solo parlano pure, e hanno preso uno sceneggiatore, uno più sceneggiatori, gli hanno detto di scrivere, molti sceneggiatori credo, da quello che leggo, davvero, e gli hanno detto di scrivere una trama su un videogioco che fondamentalmente non ha trama. Quindi qual è la trama? Chi vuole fare l'incipit della trama che sono inventati per Minecraft? Prego. Non so se sono pronto. Ok. Dai, fallo tu. Ti lascio l'onore, Angela. Ah, faccio vai. Io. Angela. No, vai, Salla. Io non l'ho vai. Visto tutto. No, l'incipit. Vabbè, l'incipit sono i primi 5 minuti di Jack Black che parla. Steve, che si chiama no, Steve. È importante perché in realtà Steve è l'unico personaggio con trama in Minecraft, perché è il personaggio base di Minecraft. Trama. Sì, chiamiamola trama. Ha un nome, ecco. Steve era un bambino infelice che diventa un adulto infelice. Perché è infelice? Perché non poteva andare in miniera. Ok. È importante questo. Questa informazione è importante. Lui non poteva andare in miniera perché era un bambino. E quindi diventa un adulto infelice a sua volta. Però poi un giorno... Perché è infelice da adulto? Perché ha un lavoro che non gli piace. Quindi... Di ufficio? E lui vuole andare in miniera. E lui voleva andare in miniera. Allora, adesso essendo ed è anche molto creativo. Ah, è vero. Perché questa creatività è un po' il, diciamo, la linea trama. Esatto, della trama. Quindi, siccome è un adulto infelice, decide di lasciare il suo lavoro e andare in miniera. Arriva in miniera da letteralmente dalle 1 alle 2 picconate. Vabbè, detta così sembra che venga assunto da un'azienda che mina carbone. Lui entra in una miniera casuale. C'ho il vecchio davanti, lo scansa perché adesso essendo un bambino non essendo più un bambino può spostare la gente, quindi scansa sto vecchio ed entra in miniera. Da tipo 1 o 2 picconate trova un cubo, e quello che è un cubo un po' più grande senza la faccia, e quindi li mette insieme ed arriva in Minecraft. Sì. E poi? Ah, poi fa più più più più e costruisce cose a caso. Allora, Angela è l'elemento di stasera che non ha giocato al videogioco, quindi sarà la voce e non ha idea di come funzioni. Quindi sarà il punto di vista di chi non ha mai giocato a Minecraft e ha visto il film, quasi tutto il film. Beh, non mi sento in colpa per non averlo finito. Comunque sì, l'incipit è più o meno quello. Poi il cubo, diciamo che... Vabbè, diciamo che il Steve si imbatte in un... Com'è che si chiama la tipa? Un maialino cattivo. Sì, un maialino cattivo, esatto. E, Malgoscia si chiama, con la voce di Mara Maionchi in italiano. Sì, con la voce di Mara Maionchi, ma non lo sapevo mai perché l'avevo visto in inglese e sottotitolato in cinese. Sì, e quindi Malgoscia che vuole per lei il cubo per dominare e distruggere tutto l'Overworld. E vabbè, poi parleremo di meccaniche o forse no, perché tanto non sono importanti. E Steve decide di evitare che questa qua si prenda il cubo e lo sbatte fuori, lo butta fuori da Minecraft usando il suo cane addestrato. No, è un lupo, era un cane lupo che ha quedato un osso e quindi gli sono venuti gli occhi a cuoricino. Sì. Sono diventati amici. Perché è una meccanica di Minecraft. Gli ha dato l'osso e gli si sono gli occhi il cuoricino. Ok. E quindi da lì si sono quindi il lupo esce e basta, in realtà perde il cubo perché di fatto è quello che succede. Poi anni dopo, non so se anni dopo. Sì, penso di sì, anni dopo. Non è tipo un bambino degli anni Ottanta. Vabbè, anni dopo un signore palestrato ma allo stesso tempo sfigato che vende cabinati e ha una sala di cabinati, trova il cubo, entra in Minecraft con i suoi compagni e inizia l'avventura vera e propria. Questo è l'incipit narrativo, più o meno. Se sembra stupido è perché purtroppo lo è. Non hanno investito sulla trama. Ok. Il bambino diventa bravissimo nel mondo di Minecraft subito. Chiaro. Sì, allora, no, ok, descriviamo i personaggi. Allora, Jack Black interpreta Steve, che è appunto il bambino... Che fa Jack Black. Esatto, è il bambino a cui piace minare, che diventa l'adulto a cui piace minare, che è Jack Black. E fa Jack Black, canta anche, fa le solite cacate di Jack Black. E poi ci sono Jason Momoa, che è lo sfigato col negozio di cabinati, e che si chiama Garrett. Oh no, si chiama The Garbage Man. Ah, è vero. In italiano è tradotto? No. Ok. Che è, che ruolo ha? Lo stereotipo del tizio egoista che fa un po' lo spaccone, ma in realtà non sa far niente ed è un fallito, e poi alla fine si redime... tra virgolette, perché di fatto nel finale, poi magari lo andremo a vedere, ma non è che cambi molto dal CPT narrativo. Poi c'è il protagonista vero e proprio, che è, come si chiama il bambino? Non mi ricordo più. Henry. Che è questo bambino che... come dire? Che era molto bravo. Allora, il bambino, allora la famiglia di c'è una famiglia formata da Henry e Natalie, che sono questo bambino e sua sorella maggiore, che si trasferisce in una città dove vive The Garbage Man, dove c'è sto cubo preso da Steve, eccetera, dove poi insieme a The Garbage Man entra in questo mondo come si chiamava? Jumanji. Ah no, è Minecraft. Allora, Harry e Natalie sono trasferiti, Natalie lavora e Harry invece va a scuola perché è un bambino, e uno si aspetta che abbia un po' quelle robe da bambino appena arrivato, che è un po' nerdino, un po' sfigatello, eccetera eccetera. No, lui arriva e la prima cosa che fa è: sono un figo da paura, costruisco un jetpack nella scuola. Allora, in un film scritto normalmente il jetpack avrebbe dei problemi, non funziona, lui fa la figura dello sfigato, eccetera. No, in realtà il jetpack viene sabotato da dei bulli e quindi lui è depresso, perché il succo del discorso è questo. E viene quindi bullizzato e fa la figura dello sfigato. La sua creatività però viene premiata al momento che va a Minecraft, dove a quanto pare la creatività permette di costruire qualsiasi cosa. Quindi il suo personaggio è più o meno questo, vuole essere il bambino sfigato che poi ha una redenzione perché ha una sua personalità, ecco. In realtà non è così, però poi magari ne parleremo. Natalie è la sorella maggiore sfigata che dice: ehi, tu pensi ancora ai giochi, sei un coglione, devi lavorare, brutto bambino, sei mio fratello, ok, eccetera. E poi c'è un altro personaggio che è completamente inutile. Che è Dawn, si chiama? La tizia di colore. Lei, non ho capito che lavoro fa. Agente immobiliare, allevatore di Agente immobiliare con animali esotici, ok. Ah. Con la moda. È chiaramente lo stesso personaggio di Peacemaker, Sal. Anche lei entra in Minecraft e anche lei ha un'evoluzione. E quindi da animali esotici avrà animali di Minecraft. Ok. Basta, non devo dire nient'altro nell'intro, è un po' casuale, ma in realtà è giusto perché è tutto qui il film. Parliamo un po' del film, ditemi voi quanto vi è piaciuto. Guarda. Prima di tutto, era davvero necessario? Beh, allora, mi sa che Office ha fatto un sacco di soldi. Ha tirato gente sprovveduta. Quindi? Hello? Allora, la risposta ad Andrea è ovviamente no, ma è proprio per quello che abbiamo ricominciato a fare questo podcast e quindi direi che era necessario. Era necessario per... Cioè, hanno fatto questo film per noi, Andrea, per farci... Grazie. Essere grazie. Qui di nuovo. Grazie, Warner. Grazie, Warner. hai fatto anche un miliardo su questo film, però dai. Porca troia. Solo per noi, tutto per noi. Ma è chiaramente un film per bambini, cioè, mo, a parte gli scherzi, lo so che c'è modo e modo di farli, che puoi farli anche per gli adulti, che puoi farli anche più... un po' meglio, un po' più, diciamo, guardabili, tipo i film di Sonic, cose così. Sì, però, sì, sì. Cioè, io all'inizio ho riso come un matto a quella battuta che poi ti ho scritto, Salla, quella... I bambini cioè, vogliono le... da in miniera, tipo come sì, sì, sì. Children Here for the Minds. Io pensavo che l'umorismo fosse tutto così, in realtà purtroppo no, cioè l'umorismo no, è per il 90%, ah guarda c'è questa meccanica come nel gioco. Esatto. Non è divertente, non è una cosa strana, non è una cosa divertente, sì ho capito, ma cioè è tutto così il gioco. È il gioco è inteso proprio come il giochino del film, nel senso la questione del film. E Momoa non lo sopporto, il bambino non lo sopporto. E Jack Black in alcuni momenti non lo sopporto, che è assurdo, cioè è difficile non farmi sopportare Jack Black. Però, boh, nel senso, non riesco a odiarlo comunque perché mi immagino essere un bambino, specialmente come quelli che si appassionano tantissimo a Minecraft, no? Che comunque il ragazzino protagonista un po' incarna, che sono quelli, non voglio dire autistici, però comunque... Speciali. Cioè, speciali. No, vabbè, sono dei bambini, ci sono dei bambini che sono ossessati da Minecraft... No, ma è comunque uno dei giochi più giocati al mondo e se non il più giocato al mondo e riesce a prendere diverse fasce, cioè sia noi anziani che un sacco di bambini, quindi il gioco sì, ma cioè poi fare il film per tutti è un po', cioè, forse un po' più difficile. Sì, no, cioè potevano farlo, non è che sto è che dicendo, questo non ah, è un poverini. Film, questo appunto è una tech demo delle sì, meccaniche sì. Del... Il problema è che puoi fare un film per bambini che magari un adulto non apprezza, ma perché capisce che è un film per bambini. Il problema è che qua cioè è brutto e basta. No, non c'è il film. Non c'è il film. Sì, manca il film. È proprio tutto. Però sì, è chiaro che il target è uno abituato da appunto da scarsa attenzione, voglio vedere le meccaniche in un mondo, perché intendiamoci, il mondo che hanno disegnato e che hanno creato in virtuale è fighissimo. Molto. Sono vero. Un paio di puttanate loro che si interlacciano male con si interfacciano male con il mondo virtuale, cioè alcune proprio sfumature, alcuni pezzettini in cui magari loro, non so, accarezza il cane e la mano gli va leggermente sopra, leggermente dentro. Detto che noi abbiamo visto Lilo e Stitch di relativamente di recente e quello è fatto di merda da quel punto di vista. Questo ok. Qui è quando la sorella prende Stitch in mano, si vede che lo tiene più largo perché comunque non è reale, ovviamente. E qua... Anche qua ci sono alcune esattezze, però è fatto molto meglio ed è reso veramente da Dio, cioè è veramente figo. E quindi da quel punto di vista, bello, però manca tutto il film. E quindi magari il bambino si esalta, sono sketch molto brevi, sono robe che non, per cui non devi stare attento, la trama non c'è, i dialoghi non ci sono, quindi sì. Vedi solo le meccaniche, eccetera. Però ecco, manca tutto il resto. Cerca di riempirlo con cazzate, tipo Jack Black che canta e fa cose. Ricaccia il gruppo, dalla School of Rock. Ecco. Che in un certo senso hanno scelto il gioco peggiore per fare questa cosa. C'è proprio sì, infatti non ha senso. Cioè, per carità, se fossi un fan appassionato ti direi, ah no, c'è questa lore, c'è questo... Ma... Cioè, il bello di Minecraft è anche quello che non c'è niente, cioè, devi fare tu la tua lore, devi fare tu la tua storia E quello che succede di solito è: ah, ero in una miniera, sono cascato nella lava. Quella è la storia. Siccome sei tu che stai scavando come un coglione verso il basso, è divertente. Cioè, si creano delle situazioni divertenti anche con gli amici, eccetera. Però, boh, ripeto, se fossi stato un bambino, cioè, nel senso. Sì, volevo chiedervi cose. Uno, secondo voi, e poi dopo chiediamo anche ad Angela. Anzi, prima chiediamo ad Angela. Se uno non ha giocato, tipo un bambino che non ha mai visto Minecraft, secondo voi riesce a capire qualcosa? Allora, per me faccio una cosa a caso. Tipo, il bambino prende un cubo e poi lo lancia a caso e diventano cubi della stessa cosa, però più grandi. Quindi la mia testa era tipo, questi possono, le risorse si moltiplicano all'infinito, perché tanto hai preso una volta il legno e quindi puoi usare infinito legno. O la tavola, quella specie di tavolina. La crafting table, sì. Ci metti quattro cose a cazzo, clicchi, puffi, escono le cose, però... Perché è molto veloce. Cioè, per me veramente ha messo 4-3 robe, tipo prese e buttate lì, e poi ci clicco, ci la schiaccio e diventa un'altra roba. Sì, poi non lo so, cioè... Cioè, fa vedere un sacco di meccaniche, ma non spiega effettivamente come funziona il mondo. Secondo me è questo il problema più grosso per un bambino che non ha mai giocato a Minecraft, per esempio. Vero. Sì, infatti non credo che... Vero, questa è una cosa che in altri film, diciamo, di videogiochi non spiegano troppo tempo a fare. Cioè, esatto, anche in Mario magari... era uguale. Sì, è più un easter egg, diciamo, più un dettaglio. Invece qui il 90% del film fanno cose che hanno poco senso. E l'altra cosa che volevo chiedere a voi è: notate la somiglianza con un altro film? Anzi, con un altro franchise? Oddio, Fast and Furious. No, so. C'era anche Robin Williams. No, c'era Robin Williams. Jumanji, dici? Ah, beh, sì, certo. Però lì la trama era molto più bella. Cioè, tutto il film in generale aveva molto però più senso. Però ci assomiglia parecchio. Dici? Sì, loro che... Beh, c'è anche lo stesso attore, c'è sempre Jack Black. C'è l'attore palestrato, c'è Jack Black. Ah, ma Jumanji, orfani... tanti, ok, quelli nuovi. Anche l'originale vecchio. Cioè, comunque c'è il tizio che era entrato dentro, che si è disperso, che loro vanno a salvare, che in realtà non vanno a salvare, ma entrano e sanno che c'è il tizio. Però più quelli nuovi. Più quelli nuovi, dai. Più quelli nuovi, sì, sì, sì. Ok, sì. Però è molto vicina alla trama. Detto che di là c'era una trama un po' più carina, mentre qua non c'è un cazzo. Vabbè, però almeno le battute... Però diciamo che è ispirato molto, molto... Cioè, vi faccio un esempio, secondo me Jumanji, il primo, è un film di videogiochi migliore di questo. Ah no, perché, certo. Perché se vi ricordate, nel primo Jumanji c'è quella scena dove tu vedi quello che sta facendo il cattivo e loro, cioè, è quasi come se fosse una cutscene, cioè loro le parlano come, ah, nei videogiochi ci sono queste cose che sono delle cinematiche che ti fanno vedere cose che non c'entrano un cazzo con quello che stai facendo tu. Sì, ma spiega anche cos'è un NPC. Si spiega cos'è un NPC. Sì, sì, cioè, nonostante non ci sia un gioco di Jumanji, capito? È un miglior adattamento di un gioco, anche se non è un granché. C'è il gioco di Jumanji, io ce l'ho. Il gioco da tavola, intendo. Quello sì, originale. Va bene. Va bene, però sì, no, bello. Da vedere, molto carino, molto meglio di quanto sembrasse il trailer inizialmente. Sì, dicevo, cioè, che se fosse durato un'ora e meno, forse sarebbe stato meglio. Dura poco, eh? No, non dura tanto. Però può durare di meno. Ce l'ho detto io, che cioè io mi trovo a dire che dura poco un film. Però comunque, secondo me, c'erano dei punti che si potevano accorciare. No, certo. Più corto di così. C'erano dei punti che dovevano, tipo... sono dei punti che veramente non hanno senso, è proprio la meccanica messa lì così per farti... Boh, non lo so, un'ora e quaranta, dura un'ora e mezza. Cioè, alla fine non dura tanto. Non ha niente da dire, sì. Cioè, il tempo è giusto. Ah, no. Certo. Adesso non voglio continuare a parlare di adattamenti migliori, ma tipo Fallout, no? Cioè, come... Ah sì, io pensavo che Fallout, cioè ho solo visto la serie TV, non ho mai giocato al gioco, pensavo avesse una vera trama. Cioè, il videogioco avesse una trama e avessero fatto un lavoro tipo della Last of Us e quindi avessero ripreso praticamente pari. Cioè, non ce l'ha, però ce l'ha, nel senso è un gioco con molta più con molte più tematiche. La cosa carina è che hanno preso proprio il comportamento dei giocatori e le classi dei personaggi e le hanno messe dentro per aiutare, diciamo, a sviluppare i personaggi, cosa che qui non hanno fatto. Cioè, qui potevano benissimo, invece di dire ah, c'è questa cosa che fai in questo modo premendo questo pulsante, tipo premi il pulsante azione per fare crafting, potevano benissimo, che ne so, fare dei riferimenti al fatto che i giocatori si fanno 800 miliardi di casse per le cose, o cioè qualcosina l'hanno fatto, perché hanno tipo c'è. Le farm. Esatto, ci sono le farm, c'è il momento in cui lui arriva nella ex casa del tizio che apre le scatole, le casse, e vede le casse piene di roba. Però non, cioè, potevano mettere molte meccaniche in meno se volevano farlo, se avessero voluto farlo decentemente e spiegarle. Cioè, ma bastava in realtà spiegare una meccanica sola, ovvero come funziona Minecraft, perché non è così complesso. Poi diciamo, le combinazioni sono complesse. Però il punto è questo, cioè tu prendi il materiale, che è un cubetto, lo puoi rimettere lì o combinare con altri. Non si è neanche preso la briga di spiegare questo. Cioè, nel senso, tu puoi prendere due materiali diversi, due pietre diverse, le metti insieme e fai una nuova. No, nella crafting table tu puoi assemblarli. Non fai solo le armi? No, puoi fare oggetti. Anche gli oggetti. Ah. Puoi fare anche, non so, se hai fatto la pietra, se hai preso la pietra, puoi anche modificare la pietra, c'è una sorta di fisica, di trasformazione, ok? Ah, io pensavo potessi soltanto mettere cose a casa e ti uscivano armi. No, no, no. Anche perché combattere è solo una piccola parte di quello che è Minecraft. Ecco. Secondo me la cosa che potevano fare per fare questo era, invece di avere solo Jack Black all'inizio, avere qualcun altro. Perché in parte perché secondo me Minecraft è fortemente multiplayer, in realtà, come, cioè, se non da un punto di vista originale, cioè all'inizio non lo era, però come community è sempre stato molto sociale, no? Ci scambiamo gli screenshot, i video, i mondi. Ah, giochiamo anche insieme, esatto. Giochiamo insieme sui server, esatto. Quindi, secondo me, avere questa... Sì, forse questo avrebbe aiutato... Ma potevano anche semplicemente rimanere come Jumanji, visto che l'hanno plagiato, tanto valeva togliere la scena iniziale in cui lui fa mi piace minare, eccetera, far vedere loro che trovano... Che bella, però! Far vedere loro che trovano semplicemente il cubo, entrano e cercano di capire che cazzo sia successo. Perché lui è entrato nel mondo e poi fa pim pim pim pim pim pim come fa Jack Black e crea tutto, però non si capisce un cazzo. Cioè, noi abbiamo capito, però chiaramente l'Enderman non guardarlo negli occhi, poi vabbè, lui lo guarda negli occhi, tralasciando questo discorso, però cioè, perché gli tiro l'uovo e diventa una gallina, perché cioè Mi certo. Fa incazzare che le canzoni di Jack Black non mi sono piaciute, Salla. Come posso fare? a me non è piaciuto neanche il resto, quindi vedi tu. Però il resto non ha lo stesso peso di delle canzoni. Di Jack Black. E comunque il film è costato 150 milioni più o meno. Di marketing sarà costato circa lo stesso, se non di più, perché questo film è uscito ovunque. E però ha fatto 1 miliardo. Ci aspettiamo un secondo Minecraft? Sì. Spero di no, ovvio. Se hanno letto la recensione. ma hanno fatto 1 miliardo di dollari. Un miliardo. E ho capito, ma sapranno leggere queste persone? Cioè, sanno scrivere, sanno leggere. Era più del doppio, cioè Warner... Sanno leggere i numeri anche, però. Esatto, mi sa che sa leggere solo i numeri. Ma c'è allora anche la scena dopo i titoli di coda, quindi probabile. Oddio, qual è la scena? Allora li reinvestono. La scena dopo i titoli di coda è che lui torna nella sua vecchia casa dove abitava. E chiede... Sì. E adesso ovviamente ci vive un'altra persona e gli chiede se per caso ha ritrovato un forziere nella sua soffitta con dentro qualcosa che... di misterioso che non dice cos'è quindi... e finisce così. Con... Vanno nell'end? Ma ho una domanda, i due cubotti che si mischiano e ti fanno entrare lì dentro hanno un nesso nel mondo di Minecraft o è una roba a caso, tipo la cassetta di Jumanji? Allora, il cubotto esterno Io non so cosa sia. Il cubotto interno potrebbe essere un beacon, quindi sì, esiste. O no? Boh. Però non è che sia così dentro la, il mondo. Di... No, no, visto che io ho capito di non aver capito, mi ero sul dubbio che non avessi capito anche altre cose. Comunque, visto che tanto noi non teniamo gli spoiler, volevo dire due parole sul finale. Non vorrei dire, ma non c'è granché da spoilerare. Allora, il finale, diciamo, loro, Steve è entrato in Minecraft, ha fatto tutte le sue cose, ha rischiato di farsi fregare il cubo, o meglio, si è fatto fregare il cubo, poi ha chiamato, cioè, sono entrati i suoi amici, quindi gli altri tre coprotagonisti, e hanno salvato il mondo, sconfiggendo il cattivo, tornano nel mondo reale, e uno cosa si aspetta? Che dopo questa esperienza i personaggi abbiano imparato qualcosa. Ora, cosa fanno i protagonisti dopo il... Cioè, qual è stata l'evoluzione dei personaggi? Allora... Il contadino è andato fuori, che fine fa? Natalie il diventa contadino. Una... Ma è il villager. Sì. Natalie ragazza madre... questa era la premessa. Inizia a fare lezioni di arti marziali, non ho capito. Ragazza madre, Jackie Chan. Okay. Sì, lei comincia a fare lezioni di arti marziali. Vabbè, la gente immobiliare, allevatore di animali esotici. Anche il cane, il lupo. Si prende il lupo. A cubetti. Poi? Ah, non lo so, non ho visto finale. The Garbage Man. Lui ha fatto un'evoluzione incredibile, dai, cioè, ha finito, cioè, che ha imparato umiltà, la collaborazione, il negozio. Salva il negozio, sì, coi diamanti. Salva il negozio! Poi, secondo me, a un certo punto diventa anche Aquaman. Crea un nuovo gioco. Il bambino, cioè ovviamente il bambino, lui non fa un cazzo, lo vende. Cioè. Gli serviva un adulto che mettesse i documenti. E il bambino è riuscito a far funzionare il jetpack che funzionava già dall'inizio. Esatto. No, perché la scena finale, io rido, perché la scena finale in realtà è la scena iniziale. Cioè, la scena finale del bambino è lui che arriva a scuola col jetpack e tutti gli fanno: adesso... bella, ora sei un grande. Esatto. L'evoluzione. Non è cambiato un cazzo. Sì. Vabbè, niente. Quindi no, neanche nel finale non è cambiato niente. Non so, secondo me è un progetto che ha... Cioè, sicuramente è un progetto che ha avuto un sacco di problemi e... No, probabilmente ha un uno, sacco di limitazioni. Vabbè, comunque è 10 anni che sono lì che cercano di farlo. Sì, ho capito, ma se sono riusciti a fare un film su Barbie, che è una bambola che nessuno voleva e tutti schifavano. Però Barbie è un film per adulti. Minecraft è un film per bambini. Puoi fare un tu film puoi per... dire, sono riuscito a fare un film di Sonic che è decente, sì. È vero. Però... Sara, ti sei contraddetto? No, diciamo no, che se ecco. Se... No, vai di, scusa. Posso dire la cosa ovvia che stiamo pensando tutti. Il mio falegname sugli scrittori. Il mio falegname, sì. No, è quello, cioè che se prendi un qualsiasi sceneggiatore e gli dici scrivimi un film per bambini su Minecraft e lui non sa cos'è Minecraft, ti fa la prima bozza in 30 minuti, poi chiami tuo figlio di 12 anni, gli dici mettici le meccaniche di Minecraft e dentro esce fuori questo. Cioè, è proprio... È una delle cose, delle trame più prevedibili della storia, ma ci sta. Cioè, appunto, non è fatto per, come dire, per essere niente di più. Sonic ha il vantaggio che si sforza di creare un pochino di più di... non so come dirlo, di trama di personaggi, come dire, di intrallazzi, intrecci e come dire, storie dentro il film invece che basarsi solo sul videogioco. Ma secondo me non può neanche farlo perché chi ha giocato i vecchi Sonic ormai ha 60 anni, non lo so. Che è lo stesso problema di Barbie, nel senso che diciamo il pubblico è vecchio. Non volevo insultare. Siamo vecchi. Siamo vecchi. Siamo vecchi. Beh, comunque il pubblico in teoria per fare un film che non fosse una serie di dinamiche, cioè, non sono solo i 12 anni. No, la cosa brutta è che c'è anche la trama, nel senso che vabbè, Minecraft il gioco reale non ha trama, cioè sì, ha una trama ma non è una vera trama, non c'è caratterizzazione del personaggio, non c'è niente. Tutti i giochini che sono usciti dopo, tipo quello che abbiamo fatto anche noi insieme, ce ne sono un botto, in realtà hanno una trama, cioè questi piglin che cercano di conquistare il... Ma quindi i maialini esistevano davvero? Sì, sì. Certo. Però ecco, poteva prendersi, cioè secondo me poteva prendere una piccola parte di Minecraft, concentrarsi su quella e perdere un po' di tempo a dire qualcosa dei personaggi, perché veramente i due personaggi femminili credo che dicano due parole in tutto il film e non hanno un'evoluzione e scompaiono, cioè per metà film loro non esistono. E i tre personaggi maschili, uno, vabbè, fa il suo ruolo, cioè Jack Black fa Jack Black, non è che si sia... cioè, ormai è quello. Cioè, alcuni giorni su set dicevano, fai Jack Black, fai. Esatto. Sì, Jack Black. Sì. Poi ci metteremo cose in CGI, tipo quando uccideva i zombie, ha detto, fai finta che ci sono gli zombie, vai. Fai delle mosse alla Jack. Jason Momoa non ha capito il casting cosa pensasse, cioè nel senso che hanno preso un tizio che è un armadio a due ante e deve fare il ruolo di questo venditore di videogiochi, ex campione di videogiochi, cioè già non è molto, non voglio dire che non sia bravo a recitare, però non è molto nella parte e in più... insomma la sua parte è una merda, quindi insomma, e quell'altro bambino è completamente inutile, cioè dice solo sono creativo, sono fantasioso. Ecco, secondo me poteva prendersi un po' più di tempo a lavorare sui personaggi, visto che sono poi quattro, non è che stiamo cioè boh, va bene e niente, volevate aggiungere altro? Abbiamo ancora un server di Minecraft aperto? Io ho un vecchio server, ma penso che ormai sia tipo radioattivo. È quello in cui ho chiuso Gava con... e poi ho allagato su casa sua. Quella sarebbe stata una storia più bella, secondo me. Fare un horror. Sì, cioè, ci sono le parti horror, sono anche carine. Perché in realtà c'è la prima notte, è un horror, però si svolge in due secondi. Il contadino che esce dal mondo di Minecraft è un villager, non è un contadino. Il villager che esce dal mondo di Minecraft e va. Oddio, avevo dimenticato. Che fine fa? Torna nel mondo di Minecraft o resta con lei? No, resta con lei e parla alla fine. Questo non ha molto senso. Sì, però. Esatto. Ma perché? Perché quella parte del film? A che serve? Poi ha tanto minutaggio comunque quella parte lì. Troppo, troppo. Cioè, la preside era perfetta all'inizio. La prima volta che la vedi, quei 5 minuti, no, neanche, saranno 2 minuti di tempo sullo schermo col bambino nell'ufficio, mm-hmm. dove la prima cosa che gli dice è sono divorziata, è perfetto. Cioè, quello è un personaggio perfetto, è oro. Perché devi buttarlo così con io queste scene? Pensavo che alla fine si mettesse con Jason Momoa. Madonna, sì, sarebbe stato bellissimo. No, invece si mette col villager e si sposano, mi pare, no? Cosa che fanno? Sì, beh, sì, più o meno sì. E lui parla. Inizia a parlare. E lei inizia a parlare... Sì, villageroso. Sì. Altre domande? Niente. No. Giochiamo? Oddio. Quindi il film ha sortito l'effetto desiderato, cioè farti giocare a Minecraft. Cioè, per i nuovi giocatori non lo so, a me non ha fatto quell'effetto. Non ti ha fatto venire voglia di giocare a Minecraft? No. Ma il mondo è bellino. Io poi ho sentito delle lamentele su come hanno fatto alcune cose, tutte, cioè, troppo cubicose o troppo reali con il cubetto, ma secondo me invece ha una buona resa il mondo, cioè esteticamente è bello da vedere. Ah, mi è come stato... ti aspetteresti un mondo di Minecraft se non sai niente di Minecraft? Cioè, le immagini che trovi in giro le vedi così. Allora, ho guardato roba online Anche tu, tra l'altro, l'hai vista. Sì. C'è un problema nella fotografia. Non so se ve ne siete accorti. È vero. E hanno sbagliato a fare... Cioè, il mondo è bellissimo, ma hanno sbagliato a fare le luci sui personaggi, cioè illuminare i personaggi. E visto che il green screen che hanno loro dietro è illuminato da dietro, loro hanno sempre in ogni inquadratura, se provate adesso a googlare, anche voi in ascolto, se provate a googlare a Minecraft Movie una scena del film e con un personaggio reale, vedrete che nel mondo di Minecraft ovviamente, il personaggio è sempre illuminato da dietro, cioè sì, ha sempre questa luce che gli arriva da dietro, da un certo, molto strano. E quello è perché hanno semplicemente cannato nel fare le luci quando hanno girato. O non ci hanno pensato, o pensavano non so. No, è fatto apposta. Perché? Così, c'è sempre le silhouette. Cioè, sai, te lo devo spiegare io queste cose. Cioè, la retroilluminazione, il backlight, si usa tantissimo anche nei videogiochi, quando non sai che cazzo fare per dire... Il backlight non è la main light. Sì, ma non è la main light. Cioè, è una luce che ti illumina i capelli da dietro. Ma no, ma la metti al 200%. Se hai visto qualche filmato di Donkey Kong, Salla, Donkey Kong nei filmati, per metà dei filmati è illuminato di tipo fucsia e verde, sempre, costantemente, è stupendo. Ma non che anche i maialini ce l'hanno. E certo. No. Sì. Ah sì, anche, ma no, loro perché hanno effettivamente la luce da dietro. Sì, no, ma tutti, anche in altre scene. Anche no, tipo, qua vedi, il cane è illuminato davanti, mentre lui è illuminato da dietro. Anche, stavo guardando una scena in questo momento, anche la scena del Lava Chicken lì. Mm. Chiaro. Loro sono, cioè, Jack Black e Momoa di fronte che si guardano con i ragazzi. Uno di fronte all'altro. E comunque sono illuminati da dietro. Hanno la luce da dietro alle spalle. Terribile. Te l'ha detto. Comunque, bravo Andrea, questa cosa di Chicken Lava mi hai ricordato Chicken Jockey. A quanto pare, non so se lo sapevate, questo film al cinema era inguardabile in America, forse anche in Europa, non lo so, che la gente che andava a vederlo, specialmente i bambini, in molte scene urlava, cioè, un po' come... RRR, non so se vi ricordate, ma famosamente in India la gente ballava Natu, tipo si saliva sul palco, c'era un palco, e ballava Natu sullo schermo. Vabbè, però in quel caso era meritato. Era meritatissimo, no? Poi se impari la coreografia sei un eroe, cioè devi salire, esatto, sul palco. Esatto, però domani guardiamo quello. Domani almeno la scena di Natu. Comunque, la questione è che tipo la scena quando lui dice I am Steve, o la scena di Chicken Jockey, semplicemente la gente urlava I am Steve insieme a Jack Black, e poi cominciava tipo a tirare i popcorn, le bibite, non so se avete mai visto questi video. No. Cioè, esplodeva la sala come se avesse detto, non so, tipo I am Iron Man, o non so, un'altra citazione che faceva. Cioè, allora io non capisco, io sono vecchio, non capisco in che percentuale le persone erano serie ed erano semplicemente eccitate, era una cosa tipo Rick e Morty con la salsa Szechuan. Questo sono io. O se era una cosa ironica, cioè sono io il problema, non capisco quanto. Vabbè, è bene e quanto è reale. Noi siamo americani, è questi vero, sono due fattori molto... Però se vi è mai capitato di essere al cinema e di avere gente che parla a voce altissima dietro, il bambino che chiede, ah, ma perché hanno fatto questo? Che è capitato? Io ai Fantastici 4. Super Mario. Vai Mario, vai Mario, vai, no, Mario non c'è cascato. Ecco, secondo me andare al cinema a vedere Minecraft Salla ti avrebbe fatto esplodere il cervello proprio. È un'occasione sprecata. Lo so. Peccato, andrò a vedere il 2. Madonna, andiamo insieme. All'arcade. No, ok, così non posso non andare io. Va bene. Se non avete altro da aggiungere, io per questo primo episodio della seconda stagione di un podcast dimenticato mi fermerei qui. Puoi chiamarlo così il nuovo? Questo podcast che avrà almeno due puntate. Beh, io direi che gli abbiamo dedicato già abbastanza tempo a questo film. Devo fare come grazie al like, grazie. Va bene, grazie dell'ascolto, grazie a voi di aver partecipato, grazie Angela per non aver visto il film ma aver comunque partecipato. Grazie a te. Noi ci vediamo. Ah, ho solo un ultimo commento. Oh, no. Allora, in aereo comunque siamo riusciti a finire Madame Web. Sì, ma entrambi non svegli. Minecraft. Ma non abbiamo finito entrambi Minecraft. Ma io poi l'ho finito. Brutto. Io poi l'ho finito. Sì, infatti entrambi, cioè io no. Per far capire quanto è brutto. Madame Web era brutto. Minecraft però sì, in effetti ha superato. Va bene, no, niente, grazie. E noi ci vediamo settimana prossima o forse quella dopo. Però sicuramente per un altro episodio. Ciao, belli. Ciao. Ciao. Ciao.